Erano giorni in cui già sapevo di avere accanto la felicità. Passeggiando in un parco a giugno mi dicevi: quello che ami, no, non finirà mai. Come vorrei incontrarti adesso, rivivere ancora un attimo di semplicità e ricordare le nostre parole. Qualcuna, sai, l'ho scritta già. Sorriso per cambiare il volto alla vita, una lacrima ci sarà, un pianto di bambino che si alza al cielo, o quel tempo in cui credi ci sarà. Ricordo quel pomeriggio in riva al mare, il tuo sorriso lo donavi a me. Viso. Ancora sento il tuo sorriso su di me. Come vorrei incontrarti adesso, riviverti ancora, sentirti qua.